dans ce belvédère. Gar MC, Pay, Fax sur beat. Ok, ok. Pompa le beat. Yeah, manca l'aria, datemi la mia aria. La mia aria. Lascio che il volume faccia strada nei pensieri, mentre penso ai miei sentieri, desideri e volentieri. Andrei a letto ma non riesco, quindi fumo, bevo e penso. Come gioco sia complesso, spesso mi ritrovo immerso nelle foto delle strade che cammino. Non confino a ciò che sento, ciò che ho dentro. A volte sento che è vicino il motivo per cui rimo, per cui scrivo, per cui vivo, per cui giro sotto tiro come fossi un assassino. Le strade di Milano sono le strade di Torino. Puoi trovarmi solamente dentro il centro del mirino. Pago un po' per tutti, pago ogni mio errore, d'ora lotto fino in fondo per un giorno migliore. E voglio prendere un'ombra e darci del colore, come prendo la mia voce, pompo l'amplificatore. Ci sono strade che calco, la vita da infarto. C'è sempre la speranza di vedere un po' più in alto. Questa va mio bro, Red Black, Eva Joe. Non sapevo cosa avevo, ora lo so. Ci sono finti giganti, ce ne sono tanti, ma ora i veri soldi, già sto chiedendo un passo avanti. A volte manca l'aria, loro sono la mia aria. Adesso datemi dell'aria. Voglio la mia aria. A volte si cade, a volte si sbaglia, ma di nuovo ti riprendi, voli alto come aria. C'è tempo ad un sorriso nella mia battaglia. Lo faccio per me stesso, non per la medaglia. Base, basso e batteria che mi portano un po' via. Questa qua è la strategia, ora della vita mia. Ho abbandonato tutto quello che pensavo fosse male, quindi adesso sto a campare senza bere né fumare. Manca l'aria, certo qua respiro solo merda. Resto lucido, ma con la guardia sempre un po' scoperta. Sulla tela che ho dipinto sono tracciate le mie gesta, solo errori abbandonati su in soffitti in una cesta. Manca l'aria, troppo rarefatta qua in altura. Scendi con lo sguardo, leggi il nome sopra la cintura. Gara colpo, autodistruttivo per natura. La mia vita è come un'arma da fuoco senza sicura. Il microfono, più gli altri tre elementi sopra il braccio. Questa musica che salva il culo quando sto uno straccio. Scritto nel DNA come fosse un'agenda. Ormai gli anni sono 30, già conosco la faccenda. Manca l'aria, a volte manca l'aria. Aria. Loro sono la mia aria. Adesso datemi dell'aria. Voglio la mia aria. A volte si cade, a volte si sbaglia, ma di nuovo ti riprendi, voli alto come aria. C'è tempo di un sorriso nella mia battaglia. Lo faccio per me stesso, non per la medaglia. Gar MC vuole aria, Pain MC vuole aria, Death Maz vuole aria. Yeah, bounce.